Non ti incazzare, lasciami il mio spazio, la mia solitudine, altrimenti ne esco pazzo. Ho bisogno di respirare la mia aria, stare da solo, prendere fiato senza che nessuno mi chieda che ore sono. Non ti incazzare, ci sarà un tempo per le rose, un tempo per abbracciare, un tempo per amare. A volte ci sentiamo nudi, a volte ci sentiamo vuoti, come langoste in una rete, come conchiglie in mezzo al mare. Non ti incazzare, amore, amore, amore, amami quando piove, amami quando c'è il sole. Ci sono strade piene di polvere che attraversano il mio cuore. Ci sono demoni che stanno arrivando, ci sono cose che non si possono dire. Ma tu non ti incazzare, amore, amore, amore, perché l'unione è anche restare un po' da soli per curare le piaghe del dolore, le ferite del cuore. Amore, amore, amore. Insieme è sempre meglio, ma si cresce sempre da soli. In fondo lo restiamo, e tu sai quanto ti amo. Amore è lasciare andare, senza paura di tornare. Amore è poter partire, amore è voler restare. Non ti incazzare, ci sarà un tempo per le rose, un tempo per abbracciare, un tempo per amare. A volte ci sentiamo nudi, a volte ci sentiamo vuoti, come langoste in una rete, come conchiglie in mezzo al mare. Non ti incazzare, amore, amore, amore, amami quando piove, amami quando c'è il sole. Ci sono strade piene di polvere che attraversano il mio cuore. Ci sono demoni che stanno arrivando, ci sono cose che non si possono dire. Ma tu non ti incazzare, amore, amore, amore, perché l'unione è anche restare un po' da soli per curare le piaghe del dolore, le ferite del cuore. Amore, amore, amore, amore.